l'Associazione Culturale Connettive presenta Controessenze, la rubrica letteraria delle donne, mujeres, femme, women, mulieres, poem, uniques, mujeres. The cauldron was a bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like piranhas in a stream. And they spread themselves before me, and often so sweet. And they beckoned, and they beckoned, come on, daddy, and eat. Eat the summer cannibals, eat, eat, eat. You eat the summer. Buonasera a tutti e a tutte. Questa sera leggeremo un articolo scritto da Lori Gruen, un'attivista e teorica femminista vegetariana statunitense. Un articolo su vegetarismo e femminismo che si intitola Empatia e impegno vegetariano. Le attiviste e le teoriche femministe hanno risposte diverse e complesse alla richiesta morale di vegetarismo. Per alcune femministe l'idea stessa che debbano esistere delle limitazioni a ciò che le donne fanno solleva obiezioni. Poiché il vegetarianismo è considerato una limitazione alimentare nelle culture come la nostra, in cui le norme di bellezza, una mitizzazione della magrezza e i disturbi alimentari hanno un notevole impatto negativo sulle donne, in particolare su quelle giovani, le argomentazioni morali contro il consumo di carne sono viste nel migliore dei casi con sospetto. Eppure altre femministe si sono preoccupate di come i discorsi universali non riescano a prendere in debita considerazione i valori tradizionali delle culture diverse da quelle in cui sono formulate le richieste di vegetarismo. Le paure qui si riferiscono al fatto che le richieste morali che spingono insistentemente le persone ad astenersi dal consumo di carne rappresentino un modo di valutare l'imperialismo e lo sciovinismo culturale. Almeno una femminista ha suggerito che i discorsi sul vegetarianismo etico si basano sulla norma di salute dell'uomo bianco e relegano le donne a una sottoclasse morale. Le donne possono essere legittimate sotto il profilo delle pretese morali ad astenersi dal consumo di carne perché si presume che i nostri corpi siano più deboli, ma essere legittimate in questo modo mette le donne in una posizione di inferiorità morale. Alcune femministe che aderiscono a quella che è stata chiamata un'etica della cura hanno sostenuto che, poiché gli animali non umani non sono in grado di stabilire un rapporto reciproco con noi, non abbiamo l'obbligo morale di diventare vegetariani. E alcune femministe che lavorano nel campo ambientale e della giustizia economica considerano la pretesa di vegetarismo elitaria, classista e razzista e sostengono che una tale pretesa rappresenti un potenziale ostacolo alla costruzione di alleanze significative che travalichino i confini di classe e di razza. Una serie di femministe ha cercato di ovviare a queste preoccupazioni tentando tuttavia di mantenere l'impegno nei confronti del vegetarismo. Queste femministe hanno affermato, tra le altre cose, che esistono importanti collegamenti concettuali e materiali tra razzismo, classismo, sessismo e specismo, che le tradizioni culturali spesso forniscono le impalcature istituzionali alla dominazione maschile e che per questo sono bersagli appropriati del pensiero critico, che mangiare in carne in sé è una forma di dominio patriarcale e che attraverso il consumo di corpi animali le donne sostengono implicitamente la loro stessa sudditanza. Secondo queste femministe, il vegetarismo fa parte di un più ampio progetto di smantellamento delle strutture d'oppressione. Le femministe, sostengono queste accademiche attiviste, dovrebbero essere vegetariane. Per quanto convincenti siano i discorsi femministi a favore del vegetarismo in termini astratti, molte femministe non si sono convinte che il vegetarismo, incluso il vegetarismo contestuale, sia un importante impegno femminista, pratico e filosofico. In questo saggio ho intenzione di esplorare questa riluttanza all'impegno vegetariano. Comincerò col formulare delle congetture su quale sia la ragione di tale riluttanza, ossia la natura alienante della pretesa di vegetarismo. Le argomentazioni a favore del vegetarismo hanno avuto la tendenza ad apparire come costrizioni esterne sul comportamento. L'esigenza etica opera dall'esterno verso l'interno. Pur ammettendo un contesto in cui la gente può venire a trovarsi, per esempio che possa avere dei bisogni nutrizionali tali da rendere la dieta vegetariana potenzialmente nociva per la sua salute, o che nella sua cultura o per il clima in cui vive una dieta vegetariana è pressoché impossibile da adottare, la richiesta non sorge dalla gente in sé. Questa distanza può rappresentare una forma implicita di resistenza al vegetarianismo. Fornirò più in là un'argomentazione alternativa al sostegno del vegetarismo contestuale, che minimizza questa alienazione, collocando la forza e l'autorità della richiesta etica in seno alla gente. Qui amplierò la discussione femminista vegetariana secondo uno stile largamente jungiano, attingendo alle esperienze di solidarietà, empatia e compassione. Le argomentazioni standard a sostegno del vegetarismo, argomentazioni che vengono per lo più comunemente associate a Tom Regan e Peter Singer, sostengono che non esiste alcuna distinzione morale tra gli animali umani e gli animali non umani, in grado di giustificare l'assurgere degli umani e la macellazione da parte dei non umani per motivi di cibo. Regan sostiene che non dovremmo concentrarsi sulle differenze fra umani e non umani, bensì sulle somiglianze, poiché sia gli umani sia i non umani sono individualmente soggetti sperimentatori di una vita, detentori di un benessere che per loro conta indipendentemente da ciò che gli altri possono pensare. Non sussiste una differenza morale rilevante tra i due. Regan ritiene che i soggetti di una vita vogliono e prediligono delle cose, credono e hanno delle sensazioni, hanno dei ricordi e nutrono delle aspettative. Tutte queste dimensioni della nostra vita, inclusi i piaceri e le pene che sperimentiamo, le gioie, le sofferenze, le soddisfazioni e le frustrazioni, la sussistenza e la morte prematura, tutte queste cose fanno la differenza rispetto alla qualità della vita, per come la viviamo, la esperiamo in quanto individui. Poiché lo stesso vale per gli animali, anche loro devono essere visti come soggetti sperimentatori di una vita con un valore intrinseco di per sé. Per Singer, poiché gli animali utilizzati per produrre cibo sono esseri in grado di soffrire e sono interessati a evitare la sofferenza, non siamo più giustificati a violare i loro interessi di quanto non lo siamo a violare interessi analoghi di un qualunque altro essere che nutra tali interessi. Confinare, controllare, manipolare, trasportare e infine macellare gli animali per produrre cibo in contesti in cui ci sono altri cibi a disposizione significa non tenere in conto gli interessi moralmente rilevanti che essi hanno con modalità che non sono giustificabili. Attraverso un attento ragionamento sulle capacità che contano moralmente, essere il soggetto di una vita nel caso di Regan o un individuo con degli interessi e capacità di sofferenza nel caso di Singer, e attraverso un'accurata documentazione sulle modalità di produzione degli alimenti nel primo mondo che non rispettano gli animali e violano i loro diritti e interessi, entrambi concludono che il vegetarismo è l'unica opzione moralmente legittima. Entrambi inoltre ritengono che sia attraverso la ragione e non appellandosi all'emozione che sono giunti a una tale conclusione. Crudas de Cuba para el mundo internacional presente. Crudas cubensi. Las mujeres resistiendo. Resistiendo, Black People, resistiendo, el mirar. de Cuba Internacional. Cruda Cuba en sí. Este es un Caribbean feminist. New Caribbean feminist. New Caribbean feminist. Nuestra lucha explota como la gambucha. Cruda sanando a la mujer que es lucha. Internacionalista. Cuba, Colombia, Ghana, Australia, China, Rusia. Nuestra lucha. Nuestra lucha. Nuestra lucha. Nuestra lucha explota como la gambucha, cruda sanando a la mujer que es lucha, internacionalista, Cuba, Colombia, Ghana, Australia, China, Rusia, nuestra lucha. When I say who, you say that. Tom Regan e Peter Singer ritengono che sia stato proprio attraverso la ragione, non attraverso l'emozione, che sono giunti alle loro conclusioni rispetto all'importanza del vegetarismo. Molti, continua Lori Gruen, hanno suggerito che questa focalizzazione sulla ragione porta avanti una tradizione che separa in modo problematico la ragione dall'emozione, il pensiero dai sentimenti. Ricerche filosofiche e psicologiche sulla natura delle emozioni suggeriscono che una psicologia morale che si sforzi di confermare questa dicotomia tra ragione e abilità cognitive con cui viene associata e l'emozione, che si presume sia non cognitiva, è sbagliata. Le femministe sono andate oltre a questa dicotomia e suggeriscono che essa rappresenti una contrapposizione di valori in cui gli appelli alla ragione sono considerati più importanti e più legittimi di quelli che si basano sull'emozione e sui sentimenti. Questa contrapposizione è uno degli strumenti politici fondamentali col quale alle donne, che sono ritenute in apparenza meno razionali e più emotive degli uomini, si insegna a valere di meno e ad avere meno legittimità e di conseguenza a essere inferiori agli uomini. Per di più, alcune femministe ritengono che le donne, le persone di colore, le persone queer e altre che sono associate alla passione, all'emozione, vengano collegati direttamente agli animali. Una connessione questa tra umani, diciamo, passionali e animali, che indebolisce ulteriormente tutti i tentativi di tutti gli altri inferiori affinché i loro interessi vengano considerati in modo equo, siano tenuti nella debita considerazione e vengano considerati degni di rispetto. Questa contrapposizione quindi fa parte di quella che è stata chiamata la logica di dominazione, che opera al fine di rafforzare il sessismo e altre forme di oppressione pregiudizievoli e quindi sostiene e afferma lo sfruttamento dei non umani. Paradossalmente le argomentazioni standard che sono alla base dell'impegno morale nei confronti del vegetarismo e le argomentazioni femministe che intendono offrire risposte a queste argomentazioni condividono delle caratteristiche, hanno delle caratteristiche in comune che ritengo possano contribuire alla resistenza nei confronti del vegetarismo che manifestano alcune femministe. Entrambe le argomentazioni si concentrano sulla somiglianza o identicità. Singer e Regan sono interessati ad individuare quelle caratteristiche che i non umani condividono con gli umani. I maiali sono animali profondamente sensibili, ad esempio intelligenti, e queste abilità non sono apprezzate quando i maiali vengono confinati nelle gabbie da gestazione, viene negato loro l'accesso all'aria pulita, all'acqua, il contatto con la prole, per poi infine essere macellati. I polli possiedono elaborati sistemi sociali che vengono disorientati nel momento stesso in cui vengono obbligati a vivere in spazi confinati con centinaia di altri uccelli. E ovviamente i miliardi di animali macellati per produrre cibo ogni anno negli Stati Uniti sono creature che possono e che di fatto soffrono. Con loro condividiamo queste e forse altre abilità, e poiché diamo valore alla nostra intelligenza, alla nostra relativa libertà, alla nostra capacità di esplorare un terreno sociale complesso e ai desideri che abbiamo di vivere liberi dalla sofferenza, dovremmo anche dare valore a queste cose negli animali non umani. Anche le argomentazioni femministe evidenziano le somiglianze, ma di solito le somiglianze esistono, intercorrono, tra gli atteggiamenti che si hanno nei confronti degli animali e il modo in cui trattiamo i gruppi piuttosto che gli individui. Le donne, le persone di colore, le persone queer, gli animali non umani sono tutti considerati inferiori nella gerarchia rispetto agli uomini bianchi, eterosessuali e fisicamente abili. Gli strumenti concettuali e le strutture istituzionali che conservano lo status di questi uomini vengono impiegati contro le donne e contro gli animali. In questo modo l'oppressione di uno qualsiasi di questi gruppi è collegata, e se una si oppone al sessismo, al razzismo, all'eterosessismo eccetera, dovrebbe anche opporsi allo specismo. E dunque il miglior modo di opporsi allo specismo è diventare vegetariani, per cui le femministe a mio avviso dovrebbero diventare vegetariane. Eppure la focalizzazione incentrata sulle somiglianze tende a celare le importanti differenze esistenti tra gli individui e tra i gruppi. I paragoni si fanno strada verso entrambe le direzioni. Per un verso, stabilire confronti tra l'oppressione delle donne o degli afroamericani e il trattamento degli animali, o tra l'olocausto nazista e l'allevamento intensivo, o tra gli umani con disabilità mentale, casi marginali, e gli animali, può essere inteso come una forma di sottovalutazione dei primi con l'intento di esaltare i secondi. Oltre a costruire un problema a livello concettuale, confronti di questo tipo possono avere effetti politici spaventosi, poiché le alleanze politiche sono spesso indebolite. Si consideri l'uso diffuso del termine stupro per descrivere la distruzione ambientale. Quando si descrive il disboscamento a taglio raso, ad esempio, come lo stupro di una foresta, l'effettivo trauma con cui le donne sono state stuprate devono condividere quando sopravvivono a tale esperienza viene ignorato. Questo trauma e la rabbia, la paura, l'incertezza e altre emozioni con cui hanno a che fare le sopravvissute a uno stupro non sono e infatti non possono essere sperimentate dagli alberi. Quando si utilizza lo stupro per descrivere una qualsiasi cosa orribile e violenta, la violenza e l'orrore specifici di un uomo che stupra una donna vengono offuscati. L'attivismo e il sapere femminista hanno messo in guardia dai pericoli che si insidiano nelle generalizzazioni categoriche. Il termine donna, sebbene prima fosse in genere destinato a includere tutte le donne, spesso rappresenta il punto di vista specifico di alcune donne, quelle bianche, eterosessuali, di classe media, fisicamente abili o comunque relativamente privilegiate. Nel porre richieste sulle donne o sugli animali o nel focalizzarsi sulle similitudini tra individui e altrimenti piuttosto diversi, si corre il rischio di perdersi in eccessive generalizzazioni. Questa sorta di generalizzazione esclude a prima vista alcuni individui che non si riconoscono nella descrizione. Se si illustra un impegno morale e politico in termini di similitudini cui sfugge la differenza, allora molti troveranno questi impegni allineanti. Una lezione importante che le femministe hanno imparato dalle critiche rivolte a queste generalizzazioni è come pensare di più a capire la differenza e allo stesso tempo conservare la capacità di porre richieste efficaci che non si riducano a una serie di atteggiamenti o di esperienze particolari. Una delle abilità più importanti per capire e rispettare la differenza è la capacità di provare empatia. L'empatia è un'abilità che una persona con un particolare considerazione di sé possiede per entrare in contatto in modo riflessivo con la situazione di un'altra. È importante che una persona empatica possieda un sé distintivo, così che quando entra in contatto con l'altra attraverso l'immaginazione non pensi di trovarsi nella situazione dell'altro. Soltanto alcuni esseri possiedono tale capacità, quelli in grado di distinguere il sé e l'altro. Nonostante che gli individui privi di una considerazione di sé distintiva spesso agiscano come se provassero empatia, forse per esempio rispondono al dolore o alla paura o alla gioia che vedono che provano gli altri, questa reazione è diversa da quello che io chiamo empatia. Essa evolve piuttosto in quello che è stato chiamato il contagio emotivo. La percezione razionale dello stato emotivo e mentale dell'altro e la reazione spontanea a esso. L'empatia, d'altro canto, richiede riflessione. L'empatia è diversa dal fenomeno a esso collegato, chiamato comprensione. La comprensione implica il mantenimento dei propri atteggiamenti e preferenze e aggiunge a questi la preoccupazione per l'altro. La comprensione per l'altro è sentita dall'esterno, dal punto di vista di una terza persona. Posso provare comprensione per la difficoltà di un altro, perfino pietà, ma rimanere piuttosto distante da quella difficoltà. La comprensione, per come la intendo io, più dell'empatia, possiede il potenziale per essere condiscendente o paternalistica, giacché si mantengono i rapporti, i propri atteggiamenti, credenze, fino anche i pregiudizi. Si può provare comprensione per l'altro quando essa non è richiesta. La comprensione, intesa in questo modo, può anche essere considerata un'altra forma di distanza. L'empatia, d'altra parte, richiede un certo impegno nei confronti di e comprensione delle condizioni dell'altro. L'empatia, quindi, è molto adeguata alle situazioni in cui intercorrono differenze rilevanti tra l'empatica e coloro verso cui lei prova empatia. L'empatia fa più presa della comprensione, fornisce un maggiore apporto motivazionale. Di seguito riporto alcuni esempi di risposte che considero empatiche. Il mantenimento della linea di produzione degli animali è indubbiamente uno dei capitoli più ignobili e bui della cultura umana. Se vi siete mai trovati dinanzi a una stalla in cui gli animali sono all'ingrasso e hanno udito centinaia di volte il belato dei vitelli, se riuscite a comprendere le grida d'aiuto del vitello, allora ne avrete avuto abbastanza di chi trae profitto da tutto questo. Oppure considerate queste osservazioni di una 19enne che svolgeva dei lavori in una fattoria come parte di un corso didattico al college. La prima volta che misi piede in una stanza dal macello, avevo appena scavezzato e trascinato un manzo nella fila di attesa. Posso assicurare che il manzo fiutò quello che gli stava per accadere. Faceva di tutto per scappare. Poi, quando mi recai nella stanza del macello, fui sconvolta dalla quantità di sangue. Fu una sensazione terribile osservare gli occhi spalancati e i piedi puntati verso l'altro di quel manzo, al punto che dovetti guardare il soffitto. Il signor Tizio mi disse di tagliargli la gola con una sega. Non riuscii a farlo, per cui me ne andai. Immagino che la macellazione ha avuto degli effetti peggiori su di me, a differenza di altre persone, perché avevo cresciuto dei vitelli a casa per 4H. 4H è un'associazione giovanile statunitense del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, il cui obiettivo è sviluppare nei giovani il loro massimo potenziale. E mi ero affezionata a loro, ma non li ammazzo. Queste reazioni suggeriscono che sperimentare l'empatia per altri diversi da noi richiede un'attenzione alle loro esperienze, oltre che riflessioni sulle peculiari caratteristiche della situazione. Per esempio che la gente trae profitto dalla sofferenza degli animali, che provare affezione per un certo animale può fornire un legame con un altro animale cui non siamo affezionati allo stesso modo. Tuttavia, molti di noi non sono in condizioni di testimoniare il dolore che provano gli animali. Ci troviamo in genere a una certa distanza dal dolore immediato, dall'angoscia, dalla paura, dalla confusione e dalla sofferenza degli altri. Pochi di noi guardano negli occhi gli animali mentre li sgozzano. Perciò, in che modo, dalla nostra distanza confortevole, sviluppiamo un'empatia per questi animali che ci possa spingere a impegnarci ad abbracciare il vegetarismo contestuale? Un modo affinché questo accada è partire dalla nostra specifica esperienza, in particolari contesti con altri non umani, come nel caso della giovane con i vitelli di H4. I legami che sviluppano con i non umani, che sviluppiamo con i non umani nelle nostre vite, ci richiedono di affinare la nostra coscienza empatica. Chris Cuomo ed io abbiamo individuato le relazioni e le amicizie interspecifiche come dei luoghi particolarmente ricchi di informazione per colmare le distanze tra le differenze. Queste particolari esperienze rappresentano delle opportunità speciali per sviluppare l'empatia che ci può aiutare a destreggiarci in altri contesti che ci richiedono risposte morali. Una volta che sviluppiamo empatia verso i non umani con i quali abbiamo maturato una relazione di amicizia, diventa più semplice sviluppare empatia verso gli altri. Hello, j'en pressais sans inhibition. Qui marche dans la nuit, dans l'oubli de qui ils sont. La loi du vivant a tué l'enfant, l'a tué pour aduler la grande division. Les gens se détestent, malédiction. Les gens se dépêchent sans savoir où ils vont. Angoisse et stress, poisse et stress. L'esprit carré comme une télévision. Humain qu'on délaisse, pays riche et ses champs des CF. Légitime, on se bat, on se lève. Véridique, j'ai jeunesse, y'a plus qu'une, on se rêve. Tout trahit, on se crève. En secret, on s'aime, on trahit, on s'aime. Si on faille, on sert, on crève. Si on cède, rien n'est pas si l'on sait. La vie vouée à triompher, alors brise tes chaînes. Hello, hello, j'en pressais la tête dans l'assiette. Une vie entière à regarder par la fenêtre. À rêver en silence une autre vie d'un autre toi. Alors l'oubli de toi fera l'affaire. Mais dans l'esprit, tous les soirs sera de la fête. L'angoisse et les cris étouffés par le paraître. Des nœuds dans la tête, les poignets liés, héritiers du malaise. Brise tes chaînes. Hello, hello, j'en pressais des laissés d'histoire. Qui s'interdit de croire en sa propre victoire. Tête baissée pour ne plus voir le futur. Pour ne plus voir l'usure dans son propre miroir, dérisoire, rêve de vitrine, victime, tu rêves pour la gloire attirée par ce qui prime, pensant à avoir, prétendant tout savoir, des abusés, à force de croire tout ce qu'ils disent sur le banc des accusés, insoumission, qu'on veut morte ou derrière des barreaux de prison, digne héritière étriquée aux éclats de vérité, mutilée par bien trop d'oppression, arbitraire horizon, chacun ses schémas, son vécu, ses raisons, l'inertie totale, infectée, les plaies, le sens, sclérosée par des milliers de questions et les angoisses qu'elles t'amènent. Vas-y, sauve-toi de toi-même. Hello, j'en pressais la tête dans l'assiette. Une vie entière à regarder par la fenêtre. À rêver en silence une autre vie dans l'autre soir. Alors une cuisse de soi fera l'affaire. Mais dans l'esprit, tous les forces à de la fête. L'angoisse et les cris étouffés par le paraître. Des nœuds dans la tête, les poignets liés, héritiers du mal-être. Brise tes chaînes. J'en pressais la tête dans l'assiette. Une vie entière à regarder par la fenêtre. À rêver en silence une autre vie dans l'autre soir. Alors une cuisse de soi fera l'affaire. Mais dans l'esprit, tous les forces à de la fête. L'angoisse et les cris étouffés par le paraître. Des nœuds dans la tête, les poignets liés. Il coinvolgimento empatico con i diversi altri è una forma di attenzione morale che non solo porta in primo piano le rivendicazioni che i non umani ci rivolgono, ma che ci può anche aiutare a espandere la nostra attenzione morale. Caratteristiche di una situazione specifica, queste che potrebbero essere occultate qualora dovessimo ragionare soltanto a livello astratto sui nostri doveri nei confronti degli animali o quando i loro diritti tornano alla ribalta. Quando cominciamo a riconoscere che gli animali non umani sono degni della nostra attenzione, poiché sono esseri per cui possiamo provare empatia, essi non possono più essere percepiti soltanto come cibo. Sono creature con cui condividiamo il nostro modo di essere al mondo. Vista in quest'ottica, la richiesta di vegetarismo scaturisce dall'interno di noi stessi. Non si tratta di una qualche richiesta astratta, desunta da un'attenta argomentazione. Se desideriamo che il mondo stia meglio, se desideriamo capire come reagiamo di fronte a situazioni specifiche e se desideriamo capire come riflettiamo sul significato di tali reazioni, allora non possiamo fare altro che accettare il vegetarismo contestuale. Queste riflessioni su una possibile fonte di resistenza al vegetarismo e il mio punto di vista sull'importanza del coinvolgimento empatico con creature diverse da noi non sono intese a scalfire la potenza delle argomentazioni femministe vegetariane o in genere le argomentazioni standard a favore del vegetarismo, ove ognuna di queste è compatibile con il riconoscimento dell'importanza di un coinvolgimento empatico con gli animali non umani. Mentre milioni di animali nascono ancora per essere macellati, mentre l'ambiente viene distrutto dall'agribusiness, mentre la cattiva distribuzione del cibo porta alla fame centinaia di bambini nel mondo, mentre le attività dei ricchi e dei potenti sono fonte di indicibile sofferenza per gli emarginati e gli animali, una, intesa una femminista, può forse essere pragmatica con ragionevolezza. Esistono diverse ragioni per pensare di più al contributo che diamo nel momento in cui acquistiamo prodotti provenienti dal moderno allevamento intensivo e diverse ragioni per smettere di mangiare animali. Marketplace, down trolls, downs. Even if you do, you just might hit one of your own. Life is not about your policies all the time, so you better rearrange your philosophies. I'll be good to your fellow, my data. Stop calling me a prisoner. Prisoner, let him use his fountain. siamo arrivate ai saluti. Vi ricordiamo che se volete intervenire su questo o ad altri argomenti, dare dei suggerimenti, ci potete scrivere all'indirizzo email connettive@gmail.com. Ripeto, connettive@gmail.com. Ci risentiamo fra due martedì, saremo di nuovo in onda con una nostra vecchia trasmissione e niente, buon ascolto, ciao. Beckoned, come on. edge, she's got it damn rough. And I pushed away my plate, said, boys, I've had enough.